State ascoltando Radio Dopo. Radio Dopo. Ciao a tutti, io sono The Lonely Man e benvenuti a Nostalgia Wave, un viaggio tra le luci e le ombre del post-punk e della new wave. Stasera qui a Radio Dopo ascolteremo attraverso i vinili band britanniche che hanno definito e segnato il suono degli anni Ottanta, un'epoca in cui la musica è diventata più oscura, le chitarre più taglienti e il ritmo più ballabile. Band che hanno ispirato tantissimo la scena post-punk moderna, basti pensare agli Interpol, gli Editors, i Fontaines DC, i National, gli Idols, fino ad arrivare ai bielorussi Molchat Doma. E cominciamo subito con una delle band più iconiche e influenti della scena, ovvero i Joy Division, quattro ragazzi di Manchester che, dopo aver visto i Sex Pistols dal vivo, prendono l'energia del punk e traducono il grigiore delle fabbriche in un suono completamente nuovo. Inizialmente con il nome Warsaw, cambiano il nome in Joy Division e pubblicano nel 1979 Unknown Pleasures, album reso iconico dal lavoro di Martin Hannett, produttore che ha creato quel senso di vuoto e isolamento, e dall'iconica copertina di Peter Saville che ritrae le onde radio di un asse laborente, la Pulsar. Non da meno l'etichetta discografica, non dimentichiamo la Factory Records, fondata dalla visionaria Tony Wilson, che ha dato il via a questa intera scena. Adesso da appunto Unknown Pleasure ci andremo a ascoltare She Lost Control e questi sono i Joy Division. We'll be right back. E abbiamo ascoltato i Joy Division con She Lost Control, che parla di una lotta interiore di chi perde il controllo sulla propria vita. Infatti il testo è ispirato a una ragazza epilettica che Ian Curtis conosceva e che è morta durante una crisi. E la musica stessa sembra ricreare l'idea. Ma dopo la morte di Curtis, i restanti tre cambiano nome in New Order, una band che ha continuato la sua attività evolvendosi e lasciando un segno per oltre 40 anni. Nel 1981 pubblica un Movement, il disco della transizione, registrato sempre con Marty Hannett. La copertina di Peter Saville è un omaggio al futurismo. Dreams Never End, che adesso andremo ad ascoltare, è la risposta al vuoto lasciato da Ian Curtis. Il testo è venato di amarezza, descrive la necessità di andare avanti portandosi dietro il peso di chi non c'è più. Dopo la fine dei Sex Pistols, John Lydon fonda i Public Image Limited. First Issue, uscito nel 1978, è un disco autoprodotto per evitare ogni interferenza esterna e il brano Public Image è il suo manifesto di rottura. Un attacco frontale e una dichiarazione di guerra al passato, a chi voleva intrappolare Lydon nel personaggio di Johnny Rotten. La copertina infatti lo ritrae come un modello patinato, deridendo la sua vecchia immagine. E lo è anche la musica, che si sposta sul basso ossessivo di Ja Wobble e le chitarre taglienti e sperimentali di Keith Levine. You never E adesso ci spostiamo a Leeds, dove i Gang of Four hanno fuso l'etica punk con il funk di protesta. Erano una delle band più intellettuali e politiche del periodo e il loro debutto Entertainment del 1979 è un attacco satirico al capitalismo e ai media. Il brano è Tom He's a Tourist, è un capolavoro di chitarre taglienti e ritmo funk che dimostra come la rabbia possa essere ballabile. Adesso ci spostiamo a Northampton per i Bauhaus, la band che senza volerlo ha coniato il termine gothic rock. Al centro il frontman Peter Murphy, la sua presenza scenica, austera e teatrale, ha definito l'estetica del genere, con Bela Lugosi's Dead nel 1979, epica e oscura, un'estremamente considerata l'atto di fondazione del genere. Ma stasera ci ascoltiamo The Passional Lovers, una traccia tesa sulla disperazione romantica, tratta dal loro secondo album Mask del 1981. We'll be right back. rimanere in tema goth, adesso ascolteremo i Siouxsie and the Banshees, che nascono in mezzo al punk londinese, ma ne spostano subito le energie verso territori più freddi e teatrali. La loro frontwoman, Siouxsie Sioux, è l'icona che sarebbe poi diventata la regina incontrastata del gothic rock. Il singolo Happy House, che apre l'album Kaleidoscope del 1980, il loro terzo, è una svolta più ricca e cristallina rispetto ai primi lavori, volutamente sporchi. È il brano che definisce l'estetica gotica e la nuova direzione del post-punk inglese. Il testo è un ritratto sarcastico della facciata di felicità della vita domestica. E adesso ascolteremo i sound di Adrian Borland, che rappresentano il lato più diretto e meno patinato del post-punk. Borland ha convissuto con gravi problemi di salute mentale, la sua lotta interiore è il motore di tutti i testi. Il brano che ascolteremo adesso è I Can't Escape Myself, dall'album d'esordio Jeopardy del 1980, che è un grido crudo e straziante sull'impossibilità di sfuggire a se stessi. In mezzo a un suono minimale e tagliente, Borland mette la sua angoscia personale al centro di tutto. escape myself. E adesso ci spostiamo a Liverpool per ascoltare gli Echo and the Bunnymen, tra l'altro compagni di etichetta dei Sound a quei tempi con la Corova. La band, guidata dal carisma di Ian McCulloch, con un forte senso di misticismo, porta l'epica nel post-punk. McCulloch si è sempre autodefinito il miglior cantante del mondo, un atteggiamento arrogante che era parte integrante del personaggio. Tra l'altro The Killing Moon, per chi la conosce, li ha resi poi famosi anche per via dell'uso nel cinema, basti pensare a film come Donnie Darko. Rescue, che adesso ci andiamo ad ascoltare, è tratto dal loro debutto Crocodiles del 1980. Sentirete chitarre sature di riverbero con un sound che guarda alla psichedelia. Simple. E invece torniamo a Londra per parlare dei Psychedelic Furs, che rappresentano il lato più caotico e sfrontato del post-punk, ma anche più malinconici. La band è guidata da Richard Butler, la cui voce rauca li ha resi davvero unici. Successivamente otterranno un discreto successo con brani come Pretty in Pink, Love My Way o Heaven, una band che è ancora in attività e che ha suonato di recente anche in Italia. Sister Europe tratta dal loro omonimo album di debutto del 1980, dominata dal sassofono distintivo di Mars Williams, che in quel periodo non era affatto comune ascoltare nel post-punk. Sister of mine, oh my God. Adesso ritorniamo a Manchester per i Chameleons, che sono gli eredi dell'atmosfera di crisi lasciata dai Joy Division. Questo è dominato dal loro marchio di fabbrica, il muro di chitarre di Reg Smithis e Dave Fielding, con al centro Mark Burgess, cantante e bassista, che parla di alienazione e di solitudine urbana. Una band che è tornata in attività pubblicando un album proprio quest'anno e che continua a suonare in tutto il mondo, dimostrando un'influenza enorme sulla scena odierna. Il pezzo che ci ascoltiamo stasera è The Fun and the Bellows, brano omonimo di una raccolta di inediti pubblicata nel 1986, una traccia tesa dei loro primi anni di attività. Il testo usa immagini forti, metaforiche e a volte surreali per descrivere il potere emotivo e psicologico dell'amore e del desiderio. E adesso facciamo un salto in Scozia per i Simple Minds. Sebbene siano noti per le hit pop internazionali, i loro primi anni sono stati pura sperimentazione post-punk. Stiamo parlando di una band con una carriera di oltre 40 anni e quasi 20 album. Ma il brano che ho scelto stasera, I Travel, è tratto da Empires and Dance del 1980, terzo album in studio, e mostra il loro lato più oscuro, un suono lontano dai grandi stadi. Un pezzo guidato da un ritmo ossessivo da club che si mescola a suoni industriali con i synth che creano un'atmosfera fredda e grandiosa. E siamo giunti al termine del nostro primo viaggio di Nostalgia Wave. Per lasciarci c'è un brano che incarna perfettamente l'atmosfera e la malinconia che abbiamo esplorato in quest'ora. Parliamo di Cure. Robert Smith, l'unica costante della band, ha diretto interamente la svolta dark del loro secondo album, 17 Seconds, nel 1980. Il brano Forest è un viaggio nella confusione e nell'isolamento, costruito su una linea di basso ipnotica, chitarre sognanti e riverberate, e che ha consacrato Smith come maestro del dark, visionario, emozionale ed enigmatico. Grazie per essere stati con me, un saluto da The Lonely Man, buona serata e buona continuazione con i programmi di Radio Dopo. Alla prossima! Thank you. questi ultimi due minuti che restano vi saluto con la sigla che avevo preparato all'inizio e che purtroppo per problemi tecnici non è andata in onda. Quindi vi ringrazio ancora, buona serata con i programmi di Radio Dopo, alla prossima. Dopo.